la Habana, ogni donna cubana la bocca si lascia baciare. Là nella Habana, ogni musica strana ti chiama, ti invita ad amare. Là c'è la luna, una splendida luna d'argento che affascina il cuore. È la fortuna, una grande fortuna di vivere notti d'amore. Se canta il mare, se parla il cielo, potrai sognare e dimenticare nel piacere, nell'ardor, nell'incanto là nella Habana. Ogni donna cubana la bocca si lascia baciare. Là nella Habana, ogni musica strana ti chiama, ti invita ad amare.